vos y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho chiesto questa mattina un tappeto musicale perché quello che devo dirvi è grave. Ho letto che ieri a Roma c'è stata una lite che è arrivata agli insulti per l'elezione del direttore di un centro anziani. Per fare una bocciofila i vecchietti hanno litigato e quasi sono arrivati alle mani. Facendo pagare 50 centesimi per ballare, avevano installato un bar, uno studio medico e un'agenzia a viaggi abusivi. Beh, prima di arrivare anche noi a litigare per i 50 centesimi del ballo delle dentiere, per i viaggi abusivi e per la partita di bocce, questa mattina vorrei, se posso, istigarvi alle fughe domestiche. Vorrei proprio esortarvi a rivelare le vostre fughe domestiche. Per molti sembra un controsenso, ciò che è domestico non può essere fugace, invece no, è lì proprio lo sbaglio. La fuga non porta lontano, la fuga senza ritorno è qualcosa di deleterio, è qualcosa che uccide la nostra serenità, ci mette ansia. La fuga domestica è una fuga con il biglietto di ritorno assicurato. Se voi collaborate questa mattina vi aiuterò a tracciare la mappa di quelle tiepide fessure che si nascondono nel quotidiano di ogni persona. Secondo me, ma poi voi potrete contraddirmi, sono delle aperture impercettibili che noi incrociamo durante la nostra giornata. A volte non ci accorgiamo nemmeno che ci siano, altre facciamo finta di non vederle, altre ancora abbiamo proprio paura di andare a vedere cosa si nasconda dall'altra parte. Chi mai avesse però l'ardimento di attraversarle godrà di innocue e controllate fughe domestiche. E il ritorno è assicurato soltanto se seguite attentamente le istruzioni che sto per darvi. La fuga domestica innanzitutto è sconsigliata a quelle persone che soffrono di patologie dell'umore, come la rassegnazione cronica o la perdita dell'uso corretto dell'azzardo. Vorrei raccomandare poi la stessa cautela a tutti quelli che si sentono vincolati in maniera indissolubile a circostanze abituali, a persone o comunque luoghi, oggetti, affetti familiari con cui hanno una prolungata frequentazione. Talora, dopo la pratica prolungata di fuga domestica, ci fossero mai dei sintomi ricorrenti, quali senso di colpa o un frequente stimolo alla sincerità, io vi raccomando di rivolgervi in questo caso al vostro carnefice di fiducia. Mi sembra che il tema sia chiaro, la fuga domestica. Quanto mai voi avete pensato alla fuga domestica? Quanto frequentate la fuga domestica? Quanto fate caso ogni mattina uscendo di casa, ogni sera al rientro, a quelle tiepide fessure che si aprono e si chiudono, sono velocissime nel corso della nostra giornata? Le guardiamo con la coda dell'occhio, siamo tentati a molte volte, lo scrupolo, il buonsenso, le remore, la buona educazione ci impedisce di buttarcisi dentro. Non fraintendete, non sto pensando agli adulteri, alle fughe sessuali, anche a quelle naturalmente, fanno parte probabilmente dell'aspetto più corposo, più succoso, più interessante, più intrigante, ma anche più pericoloso delle fughe domestiche, perché lì veramente il biglietto di ritorno non è sempre assicurato. È molto difficile, bisogna essere molto preparati a entrare in quel tipo di fessure. Ci sono anche quelle, quindi anche su quelle, se volete, riferite, anzi, sono qui tutto orecchi per ascoltare. Ci sono anche delle forme più innocenti di fuga domestica, immagino, maniere quotidiane per rubare attimi di esistenza al quotidiano, esistenza al ciò che è consuetudine, ciò che ci logora, ciò che ci fa invecchiare. Prima di ridurci anche noi a fare capelli e a prendersi a colpi di stampelle di bastone per i 50 centesimi del ballo al centro anziani, pensiamo che forse varrebbe la pena di assaporare anche le fughe domestiche. 800 24 0024, sto aspettando. Il luogo di fuga dal mondo che preferisco è senz'altro il treno. Non mi capita di prenderlo tutti i giorni, però quando questo avviene per me è quasi una festa. Posso stare 3 ore, 4 ore anche a non pensare a nulla di quello che normalmente mi appedia. Posso leggere finalmente in pace, posso anche vedere un film se ho con me il computer portatile, ma soprattutto posso stare da solo a guardare fuori dal finestrino e vagare con la mente dove mi pare. È per questo che poi non ho alcun desiderio di prendere mezzi più veloci come l'aereo per i miei spostamenti di lavoro. Vorrei istituire una sorta di servizio metropolitano di fuga domestica, un tram per solitari in fuga per 1 ora al giorno. La domestica fuga dinamica, quella attraverso i mezzi pubblici. La collega all'inizio della trasmissione raccomandava l'uso del libro nell'autobus. È vero, la mattina chi prende i mezzi pubblici trova un'infinità di fessure aperte. L'una è quella di osservare i propri vicini di metropolitana, con i quali si ha anche un contatto fisico, può essere sgradevole, ma altre volte può essere interessante annusare i profumi delle persone che la mattina ancora possono essere annoverati nella sfera dei profumi, tranne che trovare quelle signore meravigliose, ben vestite, profumate, macrolalito che sa d'aglio, ma che però le si perdona perché si immagina che quell'aglio è legato a una possibile fuga serale, notturna. Sono andate a mangiarsi la bruschetta o a mangiarsi la pasta col pesto con qualcuno magari non è il legittimo compagno, e quindi sono indulgenti. Io che odio l'aglio, ho fatto un patto di sangue di fronte ai giudici, di fronte al Padre Eterno quando mi sono sposato, che mai aglio entro in casa mia. Sono disposto, siccome do un'accezione fugace, anche a sopportare quell'odore d'aglio. Poi il treno. Come giustamente diceva questo ascoltatore, la grande scoperta è il Frecciarossa. Il treno sostituisce l'aereo. L'aereo è quanto meno di meno fugace ci fosse. Strano, un apparecchio, un apparato di volo dovrebbe essere in realtà la protesi di fuga più congeniale a chi voglia astrarsi dal quotidiano, sollevarsi dal reale. Invece no, l'aereo era il luogo dell'immanenza totale. Niente di più volgare era che l'attesa dell'imbarco nel Roma-Milano o nel Milano-Roma. Questi signori di cui ho parlato molte volte, assatanati nella ostentazione della propria capacità manageriale, che danno ordini, che licenziano persone, che indicano riunioni, che si fanno leggere dossier e presentazioni dalle segretarie, tutti uguali, tutti giallastri, con i capelli perfetti, con gli abiti impeccabili, tutti con quell'odorino di colonia comprata al duty free, che è sempre uguale, sempre la stessa, è sempre la patina di rispettabilità per nascondere la marcescenza di persone che mai hanno saputo affrontare il rischio di infilarsi in quelle fessure. Lo shopping per me rappresenta veramente l'isola dove ripararsi, dove fuggire dalla quotidianità. In particolare un shopping praticato nei centri commerciali, in un centro commerciale vicino a casa mia, non perché sia particolarmente bello, ci siano cose diverse, ma anzi claustrofobico, però non prendono i cellulari, e devo dire che questo è il grande vantaggio, perché ti permette di isolarti veramente, di pensare, di concentrarti solo su di te, in più con la gratificazione di comprare, e ti compri qualcosa assolutamente per te. Il regalo non rappresenta nessuna fuga di piacere, anzi, e appunto il cellulare non prende, quindi non hai neanche il senso di colpa di doverlo chiudere, quindi di proclamarti esclusa dal mondo, ma è tutto fintamente casuale. Quindi ecco, direi che lo shopping, in particolare gli orecchini. La tiepida fessura di questa ascoltatrice è l'acquisto degli orecchini, l'acquisto del monile, l'acquisto di ciò che la rende è più vezzosa. Deve essere fatto in un ambiente di deprivazione sensoriale, o perlomeno di eliminazione dalle possibilità di inquinamento di questi suoi attimi di felicità domestica da parte di chi potrebbe telefonarle. E quindi l'isolamento della nostra protesi emozionale più attiva, che è il telefono cellulare, permette di chiudere la porta e permettere un temporaneo apporre sull'uscio di quella fessura nella quale siamo entrati il cartello "non disturbate". Si sa che poi alla fine quel cartello sarà tolto, la porta sarà riaperta, ritornerà nella vita, ma comunque nel contatto piacevole, quasi lussurioso, con la merce, con le cose da acquistare, questa ascoltatrice trova il momento di fuga. 800 24 00 24, accogliete questa mia follia di fare una trasmissione senza nessun altro supporto, che la speranza di qualcuno di voi mi dia la mappa personale delle proprie fughe domestiche, come ad esempio ha fatto, rompendo il muro dell'omertà, Annalisa. Annalisa, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Sei in procinto di attraversare la fessura della fuga domestica. Esatto, sono in procinto di attraversare la fessura della fuga domestica fisicamente, perché spesso lo facciamo mentalmente e quando magari siamo annoiati da qualcosa. Ma sei d'accordo che la fuga domestica comunque deve avere un'implicazione fisica, carnale, senza entrare nel campo più innominabile delle fughe legate alle piacevolezze degli incontri, delle avventure, delle fugaci illusioni d'amore, ma comunque adesso c'è anche un piacere fisico. Assolutamente sì, il piacere fisico può essere anche recarsi in un posto che ti gratifica, può essere anche questo, non è necessariamente la fuga carnale, l'adulterio e chi più ne ha più ne metta, può essere anche questo. Infatti solitamente quando io voglio scappare dalle quattro mura della mia stanza mi reco al bar, sempre accompagnata da un libro, e quella per me è una grandissima fuga domestica, perché sono lì, leggo, sono fuori casa e mi immergo in un altro mondo. Però di una cosa, sinceramente Annalisa, uno dei piaceri di leggere un libro in un bar è anche il piacere narcisista di essere osservato in un'attività che in realtà è gratificante, accarezza lo sguardo degli altri che ti vedono leggere in un bar dove tutti passano di fretta. Questo aumenta il piacere della fuga domestica. Assolutamente sì, questo aumenta anche la mia concentrazione. Io riesco a concentrarmi più in un bar che a casa, quindi studio molto meglio al bar, nonostante ci sia caos, gente che va, gente che viene. Senti, il luogo della fuga domestica è un luogo ricorrente, sempre lo stesso, oppure è una circostanza che tu puoi ripetere in qualunque città tu possa trovarti? Sì, è possibile che in altre città faccia la stessa cosa, cioè vada in un bar, ma solitamente quando viaggio ho la tendenza a cercare altro, e quindi dei posti storici e cose altre di questo genere. Però, ultima domanda per te Annalisa, il biglietto di ritorno. Hai mai trovato difficoltà a trovare nella tua borsetta il biglietto di ritorno quando eri in fuga domestica? No, assolutamente no. Sai, quando leggo a un certo punto poi magari ti annoi, vuoi alzarti, hai bisogno di guardare oltre il tavolino del bar. Chiudo il libro, vado via e quello è il mio biglietto di ritorno. Buon viaggio. Ciao Bruno, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo far presente che io ho adottato come lavoro un tipo di lavoro che può rappresentare una fuga domestica per le persone che sono coinvolte, ma anche per me, fondamentalmente. E che lavoro fai? Dunque, io faccio un altro lavoro, in più faccio questo, che è quello di portare delle persone che hanno bisogno, che non hanno la macchina, che non hanno il mezzo di trasporto, al supermercato a fare la spesa. Loro possono fare la spesa come vogliono, però io do delle informazioni a queste persone su come è meglio fare la spesa per risparmiare soldi. Un personal shopper. Esatto. Però delle zucchine, carciofi e insalata. Esatto. Beh, che questo è un piacere. Sì, una sorta di gigolò dei piaceri gastrici. Ma poi c'è il discorso anche che, a parte il fatto che qui si parla di risparmio, quindi è una convenienza per la persona che adopera il mio servizio. Però al di là di questo... Sì, però adesso scusami Bruno, mo che ti sei fatto il bellissimo marchettone sulla tua attività, l'aspetto fugace per te, qual è il tuo piacere e la tua fuga? Allora, qui si parla di piramide di Maslow, ora Non penso che gli ascoltatori siano molto edotti in questo, è un lato psicologico della persona, no? Lei sa cos'è la piramide di Maslow? Sinceramente, fra le tante piramidi è quella che un po' mi manca. Se lo dice, però riempie la mia lacuna. È una piramide per cui, diciamo, dobbiamo soddisfare i nostri bisogni. Diciamo, la natura umana è fatta di soddisfacimento dei nostri bisogni. Alla base sono i bisogni primari e al vertice sono i bisogni che non sono tangibili, non sono, diciamo, mercificabili. Allora, diciamo, il vertice del suo bisogno, perché il tempo è volato, sono già i 28. Mi rendo conto, però d'altronde l'argomento è talmente complesso che... Sì, ma la fuga è qualcosa di fulmineo, veloce, deve saperla sintetizzare. Ho bisogno di sentirmi utile, anche per le altre persone. Ecco, perfetto. La soddisfazione dell'altruismo è la sua fuga, che è al di là di ogni parametro, perché alla fuga si lega sempre il senso di trasgressione, di effrazione alla regola, di rottura di un patto d'amore. In realtà la sua fuga è l'altruismo e questo ci fa molto piacere. Melog 2.0. Ciao Gianluca, per me la cosa più rilassante al mondo è vedermi un film con le cuffie, in mutande, con un bel bicchiere di amaro o di birra fresca. Ah, quando faccio questo mi sento al settimo cielo. Io guido il pullman a noleggio e devo dire la verità che se la guida ti appassiona, a un certo momento acquisisci dei meccanismi tali che ti tranquillizzi invece che innervosirti. È un'esperienza veramente mistica. Per me la felicità è fare sesso tutti i giorni. 800 24 00 24, questa mattina parliamo delle fughe domestiche. Vi leggo qualche racconto, descrizione, esperienza di fugaci momenti che i nostri ascoltatori su Facebook stanno raccontando. Vitalba dice: si cercano le maglie allentate della rete per vivere altrove ed avere l'illusione che non sia finita qui tutta la vita. Ma i sensi di colpa sono in agguato, quasi doverosa espiazione. È questa la fuga attraverso i contatti emozionali che suggeriscono le macchine di relazione, come appunto il computer, ne parlammo a lungo, permettono aperture fulminanti, uscite dal mondo, uscite dalla vita, uscite dal buonsenso, ma dovete sempre fare i conti con i sensi di colpa. Se avete sensi di colpa, ahimè, la possibilità di fuggire è sempre molto limitata. Flavio, ho provato le fughe domestiche con Second Life, con chat, eppure meglio ancora tuffandomi in un libro. Ecco, sì, forse è il tuffarsi in un libro di avventure e immedesimarmi nei protagonisti. Non è esattamente questo. La fuga attraverso il libro è un'altra cosa, ammirevole, ma nulla di fuga domestica. La fuga domestica ha un aspetto trasfigurante della nostra realtà individuale, per gli attimi, fossero anche semplici attimi fugaci, in cui la si vive. Leggere un libro è un tiepido immergersi in una realtà parallela, ma non si fugge, si rimane sempre lì. La fuga domestica implica il nostro scomparire agli occhi delle persone con le quali abbiamo consueta frequentazione, e chi è in fuga domestica scompare dal mondo, poi riappare, ma in quel momento chiude veramente tutte le porte, si dissolve, è scorporato, è serena. Decide di cucinarsi qualcosa è molto impegnativo, inclusa spesa mirata, e mangiarla poi nel piatto più grande che sia, e vino da soli. Dio, da soli fa tristezza. Poi Nicola mi dice che per lui la fuga è andare a fare il calciotto. Sì, questa è una fuga. So che l'incidente fisico più frequente nel maschio italiano in età dai 20 ai 50 anni è la rottura del menisco per calcetto. Evidentemente il calcetto, il calciotto, annessi e connessi, sono delle forme di fuga maschile più frequentata. Barbara: prime fuga all'elementare, passavo il tempo a guardare fuori dalle finestre, facevo i primi viaggi estramondo. Poi passavo pomeriggio a riempire i quaderni scrivendo 100 volte, non devo guardare fuori dalla finestra mentre la maestra spiega, ma mentre scrivevo ero di nuovo altrove. A volte un problema è restare dove ti dicono di stare, e spero che un minor numero possibile di nostri ascoltatori rimanga dove gli è detto di stare normalmente. Flavia, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Senti, in questo momento la mia fuga domestica sei tu, Sì, mi dispiace di non condividerla con altrettanta partecipazione, perché sono in altro luogo. Guarda, per spiegare il mio concetto, che poi è un concetto perfettibile, degno di ogni perfezionamento, potrebbe essere giusto se noi fossimo assieme. onestamente lo dico, essendo distanti non ha il carattere della fuga, perché tu starai fuggendo, immagino, spero per te e per chi ti sta lontano in questo momento, per conto tuo. Io sto facendo il mio lavoro, che è una grande fuga, ma essendo compensata è una fuga prezzolata. La fuga deve essere totalmente gratuita, anzi costarci qualcosa. Certo. Comunque volevo dire, principalmente... No, racconta qualche fuga vera, non quelle finte. La mia fuga nera effettiva, devo dire, è il lavoro, ma è anche vero che io faccio un lavoro molto bello, perché faccio la musicista, e la musica secondo me dà una grande possibilità di fuga, nel senso di liberarsi dal peso. Flavia, siccome non qua non sembra se no che facciamo i ragazzi dell'oratorio, andiamo al sodo, tu fai la musicista. Io faccio la cantante. È la cantante, ecco, sai, la cantante. Cantare è il tuo lavoro, la tua professione, ma come fai a fuggire dalla consuetudine di andare a cantare, di cantare, di muoverti? Perché per quanto sia creativo un lavoro, è un lavoro. Avrai anche tu una fessura che ti si apre nel tuo quotidiano meraviglioso mondo degli essere una cantante? Ma se devo essere sincera, allora io quando non sono al lavoro... per me è la famiglia, sinceramente io... Vabbè, le tue fughe le trovo tristerrime, scusami Flavia, mi dispiace dirlo. O menti, e spero che tu menta, o in realtà devo dire che io nel mio delirio senile ho orizzonti molto più suggestivi. Giovanni! Salve, buongiorno. Andiamo alle fughe domestiche di Giovanni. Di solito magari quando si lavano i piatti, ascolti la musica e ti immagini... di essere quella rockstar idratata dal popolo. Guardi, io prendo per buono, anzi sono felice di sentire che esiste una così ampia capacità di adattarsi alle situazioni. Lei quando ha le mani nel lavandino assieme al residuo di cibo sui piatti e quell'odore di limone o di non so quale altro, di sapone Marsiglia, secondo di ciò che ha scelto sua moglie, si sente felice, è un momento di fuga. Sì, mentre ascolti la musica, no? Ma lei vive solo? Sì, vivo da solo. Ah, ecco, quindi il momento più bello della sua vita solitaria, sì, che tutti pensano come una sorta di ricettacolo di ogni possibilità fugace, quando lava i piatti. Esatto, sì, ti metti lì, ascolti la musica e ti immagini una vita alternativa. Che sì, ma... E al risveglio sai che non è così, però è bello. Ma dov'è la tiepida fessura di cui parlavo io, che si apre, si chiude, che occhieggia, che noi ci buttiamo dentro nella sua vita? Ma sì, ti metti lì, prendi in mano la scopa e sogni di suonare la chitarra. E così, quei 5 minuti, 3 minuti di sognarti diverso da quello che sei realmente. Guarda, penso che sì. A richiesta delle nostre ascoltatrici renderò disponibile, se lei me lo consente, i suoi riferimenti, perché lei in realtà è la persona ideale da avere vicino per una donna che sogna e pratica le fughe domestiche. Un marito che sta a casa, lava i piatti e sogna di prendere la scopa in mano e pulire, tutti lo vorrebbero avere. Lei in realtà è un grande benefattore dell'umanità. Con lei accanto fuggire sarà una meraviglia. Quindi se qualcuna in età da marito pensa che questo signore possa essere la persona adatta, io ve lo fornirò. Grazie mille. Stefano, andiamo avanti. Pronto? Sì, avanti, fuga domestica di Stefano. Salve, buongiorno. Non mi dica anche lei che stare con la famiglia, perché sennò comincio a pensare che stiate mentendo. Comincio a pensare che non ho capito. Che stiate mentendo. No, dirò una cosa che è chiaramente non è una bugia. Allora, bisognerebbe provare, o perlomeno io questo lo consiglio, se uno vuole essere sparato in orbita come un razzo, addirittura altro che fuga, molto di più. Sì, io ci riesco con la tequila qualche volta. Sì, questa cosa qui dà un po' questa cosa che sto per dire dà un po' quell'effetto lì. Giocare con i bambini. Ah, certo, veramente. Se uno prova a farlo e si ricorda di farlo, e naturalmente ci vuole una preparazione atletica, perché altrimenti uno non ce la fa, con la pancia, con la trippa. Certo, poi i sensi di colpa sono forti in questo senso, perché uno... In che senso? Senso che è stato talmente piacevole giocare con i bambini, che è una tal uscita dalla realtà. Guardi, ho fatto trasmissioni sul giocare con i figli e amo i miei figli, però per fuga intendo proprio esattamente il contrario, scusatemi. È scappare via da quello che facciamo perché ci sentiamo bene, ciò che è la piacevolissima, meravigliosa e esaltante consuetudine. È qualcosa legata al senso della trasgressione, la fuga domestica. Non è trasgredire giocare con i figli, è una cosa ottima, meravigliosa, che tutti vorremmo fare, ma dov'è quel senso quasi di rischio e di paura di infilarsi nella fessura? Ho capito. Questo, diciamo. Allora avevo capito male, mi dispiace. Allora, riponiamo la domanda. Lei che piacevolmente ha una vita tranquilla, domestica, familiare e gratificante, come giocare con i figli. Durante la sua esistenza trova mai delle tentazioni di fuga, ma anche semplicemente di andarsene al bar, come dice la nostra ascoltatrice, e bersi qualcosa lontano da tutti? Sì, sì, quello di stare per conto mio è assolutamente Quali sono i luoghi in cui lei sta per conto suo? Sono la mattina molto presto, mi piace alzarmi alle 5, così, nel buio totale, nel aprire la finestra e con il caffè caldo pensare. Perfetto, questo comincia a essere un momento di fuga. Roberto. Sì, pronto, buongiorno. Contraddica la mia impressione di star facendo, di essere al microfono di Radio Maria. Mi dica un suo motivo di fuga. Allora, guardi, io l'unico motivo di fuga che ho avuto, perché tale lo ritengo, sono state le fughe, quelle extraconiugali, diciamo. Sì, le scappatelle. Sì, le scappatelle, anche se non le ho mai relegate proprio alla parte esclusivamente sessuale, ma proprio alla ricerca di qualcosa che mancava. Allora, mi dica la differenza, secondo lei, sì, tra il banalissimo adulterio, quelli o quelle che si fanno l'amante, la bigamia controllata e la fuga domestica intesa come fugace e fulminante scoperta di un'altra persona? Guardi, io per quello che ho provato personalmente è proprio l'appagamento di, come posso dire, cioè il sentirsi, uso un termine forse banale, vivo, diciamo ritrovare qualcosa che si pensava aver perso. Io nel contatto con queste donne, sì, il sesso, quindi per carità non lo nego, però cercavo proprio un'affermazione. Forse ecco, del maschio, e il biglietto di ritorno è difficile a tirarlo fuori oppure è una cosa abbastanza facile? Non ho capito. Scusa. Il biglietto di ritorno da questo tipo di fuga? L'ho trovato sempre fino a che forse avendo tirato troppo la corda o avendo deciso io che non andava più bene così, ho lasciato tutto e quindi è tornato a fare il buon marito. Bravo. No, ho lasciato mia moglie. Ha lasciato sua moglie, quindi si è innamorato, si è trovato un'altra donna. Va bene. Sì, esatto. Maria. Buongiorno Gianluca. Fuga. La mia fuga è parecchio stigmatizzata da tutti coloro che mi stanno attorno, pur essendo quanto più di innocente mi venga in mente. È un'applicazione disponibile su Facebook che ha un che anche di infantile, che mi fa sentire bambina ma felice. Sì. E si chiama Pet Society. Cioè, quale animale sei? Una cosa del genere? Non ho capito. Ma come funziona l'applicazione? Ma è una sorta di gioco in flash, un'animazione flash. Ciascuno ha il suo animaletto al quale bisogna badare, al quale bisogna costruire nel tempo un'abitazione sempre più sontuosa e confacente alle sue necessità. Insomma, è una fuga che poi porta via anche tempo prezioso e poi le darà, dire, un sacco di soddisfazione, immagino. Sì, guardi, lei non ci può credere, ma no, io credo così. Benissimo. Va bene, sono contento che esistano dei sistemi di compiacimento e di soddisfazione del genere umano così di facile portata, come un giochetto in flash in cui alleva il suo cucciolo virtuale e felicemente passa il suo tempo. Melog 2.0. La mia testimonianza è questa: evadere è sempre stata la mia arte suprema per tutta la vita e trovavo modi sempre fantasiosi e nuovi di evasione. Lo sforzo vero però che ha prodotto concretamente trasformazioni è stato l'atto sistematico di entrare nel mondo e nelle esperienze del mondo, anche dolorose, non di evadere. Interessante quello che dice l'ascoltatrice. La fuga domestica a volte è un'entrata nel mondo, non è un'uscita dal mondo. Ma questo significa che il mondo che noi definiamo come tale non è un mondo degno di essere vissuto, è una parziale ricostruzione del mondo. La fessura che ci si apre lungo la strada molte volte ci fa entrare nel mondo, ci fa entrare in un'esperienza concreta, un'esperienza reale, è qualcosa che ci dà il vero sapore di quello che sia l'esistenza. E poi se il nostro destino, la nostra scelta di vita è vivere in un non mondo, si ritorna nel non mondo, però almeno si è conosciuto quello che è ciò che, per cui vale la pena di vivere. Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini mi hanno bacchettato e mi hanno accusato di voler portare acqua al mio mulino. Dice: tu vuoi far parlare la agente soltanto delle fughe nella direzione del peccato. Non è esattamente così, non è la trasgressione che cerco, ma cerco perlomeno qualcosa che assomiglia alla testimonianza di questa ascoltatrice. Non posso pensare che il campione significativo dei miei ascoltatori consideri motivo di fuga domestica lavare i piatti, portare a spasso un cagnolino virtuale o semplicemente giocherellare coi figli, che è una cosa meravigliosa, ma non ci trovo la circostanza additiva di quel fugace sapore che rende la fuga domestica degna di essere vissuta. 800240024. Daniela. Sì, buongiorno. Ma io direi che ho due fughe domestiche. Proprio sto cerco il mio non mondo in due maniere forse un po' singolari. Me ne racconti. O forse banali. Una, fare come facevo da bambina, l'ho sempre fatto e continuo, non mi vergogno a dirlo, ho 53 anni, ma ogni tanto il mio minutino me lo ritaglio. Coricarmi in un prato o comunque guardare dalla finestra, se non è possibile, essere in mezzo alla natura e guardare la trasformazione delle nuvole. È una meraviglia vedere come si trasformano, immaginare cosa potrebbero essere, la figura che rappresentano. Insomma, è una favola che vivo io, a cui credo io. Beh, è un meraviglioso momento di fuga. Lo condivido in pieno, è un'esperienza che conosco. E le fughe che noi conoscevamo, le vie di fuga che conoscevamo da bambini, non dobbiamo disprezzarle. Da bambini eravamo molto meno condizionati dal senso di colpa, quindi eravamo molto più attenti alle fessure che si aprivano. Quelle guardare le nuvole che cambiano, magari guardarle in due e descrivere ciò che si vede è molto bello, anche perché alle spalle si ha la terra, con l'odore della terra, il rumore della terra, il profumo della terra, quindi si è sospesi fra cielo e terra anche in maniera sensoriale, quindi trovo che sia giusta. Una. L'altra qual è? E l'altra, sempre a proposito dei profumi della terra, riuscire così a ritagliare un attimo o camminate in montagna, in campagna, eccetera, oppure andare nell'orto che curiamo in famiglia con tanta cura e tanto amore, prima gioire per i profumi, per i colori, quindi una gratificazione per gli occhi, vedere anche lì la trasformazione delle piante, dal semino che poi si trasforma, vabbè, in pianta, forse sono un po' troppo... No, ma la fuga ortolana mi sembra che sia plausibile, questo per smentire chi mi accusa sempre di cercare motivi di fughe libertine. No, non voglio che parliate libertinaggio, però se ne parlate divertente. Giovanni. Pronto. La sua fuga. La mia fuga è molto seria. Intanto una piccola premessa, che io... A 42 anni penso di aver raggiunto, parliamo pure economicamente, quello che mi ero prefisso, per cui non è la mia fuga, questo mio sogno di vincere il Super Enalotto non è economico. Ah, lei vorrebbe i soldi come fuga domestica, sì. No, non è il sogno, non è il soldo, è il fatto di scorrere e dire, io sono uno dei religiosi giocatori del Super Enalotto, che tutte le settimane gioca i suoi 3 euro. Ah, quindi il momento di adrenalina dell'acquisto, della schedina, dell'attesa. Il momento in cui dici... Cosa farei se vincessi tutte queste cose? Allora comincio a pensare mentre lavoro, comincio a dire qua fare così, qua fare cosa. E la cosa più brutta è quando ci sono questi montepremi troppo alti, come quello dei 100 milioni, dove vanno a giocare tutti, che fanno coda e che a noi dà un po' fastidio, perché noi siamo i giocatori religiosi tutti i giorni, quelli del bar, della schedina. Quindi è la sua liturgia quotidiana dell'acquisto della schedina. C'è stato quel momento dei 100 milioni di qualche mese fa, dove mi sono sentito veramente nel panico, perché ho detto, se vincessi questo qua la mia vita dovrebbe completamente cambiare, dovrei cambiare casa. E questo, diciamo, è materia sufficiente per sentirsi in fuga in quei momenti. E certo, perché tu cominci a pensare che cosa farete se vincessi tutti questi soldi, che tra l'altro io non avrei, dovrei cambiare la mia vita, quasi mi sarebbe un dispiacere, perché la mia vita mi piace, me la sono cercata. Va bene, è chiaro. Valerio invece. Valerio, buongiorno. Buongiorno, la mia è una fuga... casalinga molto più prosaica, e ho la fortuna di farla tutti i giorni. Io tutti i giorni la mattina riesco a ritagliarmi un periodo lungo, vado in bagno, mi chiudo a chiave e in quel momento taglio fuori tutto il resto della mia vita. Apprezzo la sua sincerità, perché è vero, nessuno l'ha detto finora, il momento dell'isolamento acustico, mentale, dalla famiglia, da tutto il resto, nel bagno, un grande privilegio, perché di solito ci sono le corse, ma se uno riesce ad avere degli orari sfalsati e riesce ad avere tutti gli accessori di felicità nel bagno, quindi la musica, i giornali, i bagnoschiuma, i balsami, gli oli profumi, quello che vuole, comunque è una dei luoghi di fuga più invidiabili della casa. Non esiste sono riuscito ad avere un bagno tutto mio, ed è per quello che fin da bambino, quando ero un bambino, mi chiudevo in bagno e in quel momento ero da solo. Il bagno ha questa caratteristica, è un grande luogo di isolamento, è un luogo anche di educazione sentimentale per l'adolescenza, quindi diciamo che il bagno è funzionale come luogo di fuga. Complimenti. Alessandro. Sì, buongiorno. La mia è una fuga fisica, perché io esco con la bicicletta. A me piace molto andare in bicicletta, è un modo di fuggire soprattutto dal mio carnefice, che è molto attivo, ed è mia moglie, fa delle mie fughe. Ma guardi, lei deve essere grato a sua moglie, se non ci fosse sua moglie carnefice lei non avrebbe il piacere della fuga. Quando va in bicicletta naturalmente ha possibilità di fare delle soste o dei percorsi piacevoli, immagino. Sì, diciamo, io è il mio sport preferito. Diciamo che ci siamo capiti, quindi lei parte con le sue pantaloncine, il suo maglioncino rosa, se ne va in bicicletta e torna tutto contento, e il Cerbero a casa pensa che lei sia andato a pedalare e lo vede bello, soddisfatto e spompato, e è contenta che ha fatto questo sport. Grazie, andiamo avanti. Maria Luisa, stiamo per chiudere. Buongiorno. Sì. Buongiorno, sono una mamma sposata, una donna sposata di 38 anni, e la mia fuga è quella di dedicarmi dello spazio per migliorarmi, non so, per rendermi carina. Si fa bella, fugge la condanna, deve essere solo mamma e casalinga. Appunto, mi faccio bellissima, ma per cosa? Per mio marito. E dunque per creare una situazione così carina da poi condividere con lui. Le darà soddisfazione, penso. La gratitudine del suo marito sarà la fessura che si apre e la rende felice. Sì, mi rende molto felice. È che non possiamo farlo spesso, perché con tre bambine che girano per casa non è proprio così Lo so, ma avete mai pensato la delocazione, tipo lasciare i bambini a casa con la nonna e la babysitter, sì, e scappare in un motel, in un angolo nascosto? No, però lasciare a casa e magari dedicarsi una giornata, veramente una serata più che una giornata. E dove andate a fare questa serata? Beh, non lo so, abitiamo vicino a Venezia, dunque in gondola. No, in gondola no, non so. Però insomma una serata romantica come facevamo quando eravamo più giovani. Ma poi quando tornate a casa, per cogliere il frutto di tanto romanticismo, trovate i bambini che vi saltano nel letto. Però... No, dormono, fortunatamente i nostri dormono, e dunque possiamo veramente... E siete insonorizzati, grazie, perfetta, sì. Questa è veramente la fuga migliore, più plausibile, più percorribile, e arriva proprio in coda di questa folle trasmissione, quindi vi ringrazio, mi avete prestato il fianco per un'ora fugace, che anche per me ha il suo valore. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.